parlare delle relazioni, proprio dei movimenti sotterranei dentro la grande produzione televisiva, che in qualche modo io ero, di cui io ero avvertita, ma a cui non avevo dato una terminologia e soprattutto appunto uno sguardo, un'attenzione anche politica di questo tipo. Allora, per scendere un po' più sul concreto, questo saggio appunto è dedicato alla proprio alle politiche di rappresentazione, quindi di costruzione del genere e dei generi dentro la fiction poliziesca, in particolare italiana, ma anche quella straniera e statunitense soprattutto. E quindi è un saggio che muta dello stesso principio che appunto sorregge tutto quanto il libro, ovvero mostrare come quelli che apparentemente sono dei meccanismi di inclusione e quindi l'uscita, diciamo, da un paradigma di subordinazione e di discriminazione del femminile, in realtà poi si rovesciano nel loro esatto contrario, divenendo nuove forme che producono discriminazione, che producono appunto la soggettività femminile attraverso un movimento che la oggettivizza, cioè fa della condizione femminile appunto una condizione femminile, cioè una specie di status. Anna lo spiega molto bene nella prefazione del libro, insomma. Uno status dato e naturalizzato, fondato cioè sulle solite categorie del determinismo biologico. Che cosa succede? Allora, sostanzialmente, diciamo, nella fiction poliziesca, facciamo magari il caso italiano che forse può essere più noto a tutti, nella fiction poliziesca italiana, con un ritardo mostruoso rispetto a ciò che è avvenuto negli Stati Uniti, sono arrivate le prime donne poliziotto. Negli Stati Uniti questo è accaduto nel 1976 con Charlie's Angels, in Italia è avvenuto nel 1997 con Linda il Brigadiere. Qualcuno di voi forse la ricorderà, è stata appunto la prima serie poliziesca nostrana a portare in scena una donna poliziotto. Lei in realtà arriva nel terreno altamente maschile e mascolino dell'arma, scortata, come nella migliore tradizione, da un padre ex brigadiere in pensione, che ha infinite, diciamo, ruoli molto importanti nel, in realtà, poi risolvere gli intrighi e fare il lavoro al posto di Linda. Ed è anche una protagonista dal corpo estremamente femminile ed estremamente, come dire, normativo, il che serve a ricollocarla nel ruolo, diciamo, anche un po' di feticcio erotico, di oggetto di contemplazione, e quindi a stemperare la carica potenzialmente trasgressiva che è associata appunto alle donne poliziotto. Il mio testo lavora proprio su questo, cioè individua una potenziale problematicità delle donne poliziotto rispetto all'ordine simbolico, nel senso che sono delle figure che calcano appunto dei terreni maschili, svolgono ruoli maschili, sono dotate di agency, come si dice in termini tecnici, sparano, uccidono, danno la colpa, danno la caccia al colpevole e via dicendo, e quindi sono potenzialmente trasgressive. La fiction domestica, così come molte altre produzioni prima di noi, quelle statunitense in primis, ha elaborato nel corso del tempo tutta una serie di dispositivi attraverso cui si stempera questa carica potenzialmente trasgressiva, si addomesticano le donne e si ricollocano dentro le zone, diciamo, materiali e simboliche della femminilità tradizionale. E quindi è una specie di carrellata, una specie proprio di, come dire, tassonomia sui dispositivi che sono più utilizzati. Se ne possono citare alcuni particolarmente, diciamo, gustosi. Diciamo, uno è quello della narrativa edipica. La cito perché è una roba molto diffusa anche nel cinema action hollywoodiano con protagoniste femminili. La donna che si trova a calcare il terreno maschile dell'arma, comunque a essere donna che spara, uccide, che quindi svolge ruoli maschili, e quindi è anche donna che devia dalle norme di genere, è in qualche modo giustificata e stemperata nella sua anomalia, nel suo essere scarto dalla norma, attraverso la chiamata in causa di un padre putativo, no? C'è sempre, come dire, un padre dietro a queste donne, un padre in genere amato e perduto, di cui si vogliono seguire le orme, di cui si vuole difendere la memoria, di cui si vuole realizzare una vendetta perché magari è stato ucciso dai cattivi di turno, e quindi l'eroina finisce per vestire i panni assolutamente anticonformisti e antinormativi della donna che uccide, in virtù, o meglio in funzione e a causa di un padre. Lara Croft, per dirne una, nella sua trasposizione cinematografica segue esattamente questo tipo di traiettoria narrativa, e infatti si riconcilia con la sua femminilità tradizionale nel momento in cui appunto si riconcilia con l'autorità paterna. Questo accade anche in molte serie nostre. Esempio banale, la conoscerete in molti probabilmente, Giovanna Scalise o Giulia Corsi, interpretata da Claudia Pandolfi, alla guida della squadra di distretto di polizia, è definita una specie di Rambo, maschile, autoritaria, sprezzante del pericolo e via dicendo, e passa praticamente tutte due o tre le serie di cui è protagonista a cercare di difendere la memoria del padre e arrivare in fondo all'intrigo giallo che ne ha prodotto la morte. Lei, come tantissime altre, insomma, la omicidi, il bene e il male, solo per citare anche altri titoli minori, funzionano tutti su questo meccanismo. Ci sono infiniti appunto dispositivi di addomesticamento. Un altro appunto è quello che vuole le donne poliziotto italiane, sempre nel ruolo di damigelle in difficoltà, cioè nonostante nel corso degli anni abbiano fatto dei passi da gigante rispetto all'in del brigadiere, quindi si siano trasformati dall'inizio degli anni 90, iniziamo ad assistere a una serie di tipologie femminili un po' più butch, diciamo, che abbandonano i tratti della femminilità convenzionale, eroticizzata e prorompente, e vestono invece con giubbotti di pelle, stivali militari, hanno fisici asciutti, atletici, capelli corti, insomma un po' più maschilizzate. Da un punto di vista, diciamo, però poi dei ruoli narrativi, a loro molto più che ai colleghi maschi capita in continuazione di trovarsi al centro di intrighi o delle rappresaglie del serial killer di turno, o comunque in situazioni di pericolo che ne aumentano la vulnerabilità e che richiedono l'intervento salvifico degli uomini. Una serie che proprio brilla da questo punto di vista e che è una serie intrisa di dettagli di horror biopolitico è RIS, Delitti Imperfetti, che ha una vera e propria, diciamo, ossessione per la vittimizzazione femminile. Tutte le serie, sono cinque praticamente prima che arrivasse RIS, Delitti Imperfetti Roma, sono tutte serie impermeate sul solito conflitto molto personalistico e personalizzato tra il capitano della squadra e il serial killer di turno, che è, diciamo, in alternativa il mostro delle diciottenni, dedito a strangolare diciottenni e a praticamente praticargli piercing nelle zone vaginali, altri serial killer che le lasciano morire di fame, altri serial killer che si accaniscono con le lesbiche. Le donne sono sostanzialmente nel ruolo di vittima molto più degli uomini, e lo sono anche le poliziotte stesse. Questo è uno dei molti meccanismi. Facciamo una pausa musicale. Va a México. Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Chegando na parada, nossa autoestima não se cala com um tapa. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada. Mulheres de atitude, chegando na parada, nossa autoestima não se cala com um tapa, não. Incrível como o machismo ainda persiste. Ainda acham que mulher ser agredida é admissível. Pra ser espancada qualquer fato é um motivo, justificando apenas que a agressão é como um corretivo. Ele xinga, ele humilha, ele ameaça, ele surra, destrói sua autoestima, põe em jogo a sua conduta. Na hora da denúncia vem o desespero, o delegado não te apoia, tampouco tem respeito, tenta te convencer a retirar a denúncia, perguntando se talvez a culpa não foi sua. IML, chegou a hora do corpo e delito pra poder ratificar a agressão do indivíduo. A punição aplicada nunca é satisfatório, o pagamento de algumas cestas básicas é foda. O fato é doloroso e muito delicado, o trauma é eterno, jamais será alterado. O governo não oferece muitos subsídios, profissionais preparados é algo quase impossível. Delegacia da mulher, principal conquista, mas somos prejudicadas com a inoperância da justiça. Realidade sem esperança, mas com opção. Largue logo esse cara, livre-se da situação, porque o seu sentimento ninguém quer saber. Infelizmente ele não chora quando te vê sofrer. De cabeça erguida, não de boca boca calada, exercendo o seu direito de ser respeitada. Mulheres de atitude chegando na parada, nossa autoestima não se cala com tapa, de cabeça erguida, não de boca calada, exercendo o seu direito. Deixando marcas profundas que nunca mais vão sair da mente. Desacreditada, implora a Deus que seja levada. Acredita que se estiver morta, essa dor acaba. Desorientada, sem saber o que fazer, às vezes tem a sensação de que vai enlouquecer. Mas de repente, uma força surge da do nada, faz com que essa mulher sofrida não fique calada. No ato da denúncia, o safado diz que foi por amor, que não tinha intenção de causar tanta dor. Que amor é esse que espanca, machuca, maltrata, agride, humilha, oprime, ameaça e mata? Graças a Deus que muito tempo ela não deixou passar, mostrou a ele onde era seu devido lugar. Vive feliz, sua autoestima elevou, descobriu que não nasceu pra sofrer e tem um grande valor. De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo o seu direito de ser respeitada. E siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la maratona radiofonica femminista e lesbica che dura tutte le 24 ore dell'8 marzo. Stiamo parlando con Anna Simone e Elisa Giomi e tutte le redattrici di Radio Onda Rossa del martedì autogestito che ci sono venute a sostenere qua in questo momento del libro a cura di Anna Simone, Sessismo Democratico. Sì, stavamo parlando in particolare con Elisa Giomi, che ci stava raccontando insomma un po' il suo di interventi dentro a questo libro, che è un libro collettivo, e stavamo parlando appunto delle donne nei polizieschi, nelle fiction dei polizieschi. Se vogliamo concludere magari questo discorso. Sì, quindi il principio, diciamo, è quello del sessismo democratico, che diventa una lente in grado di illuminare anche il lavorio proprio simbolico fatto da queste serie, le quali sono, diciamo, poste su un confine molto ambiguo, nel senso che portando in scena poliziotte, vicequestori, carabiniere, detective, anatomopatologhe e via dicendo, insomma, anche donne che hanno ruoli direttivi, sono a capo delle squadre, hanno ruoli action, stanno sul campo, si scontrano fisicamente, gestiscono perfettamente conflitti a fuoco, insomma, hanno assunto tutte le caratteristiche e i ruoli del maschile. Quindi apparentemente, diciamo, sono donne che partecipano del principio dell'autodeterminazione e della democrazia, cioè sembrano muoversi in un mondo di uguali opportunità dove le stesse possibilità di istruzione, di inserimento professionale, di carriera e di reddito sono riservate tanto agli uomini quanto alle donne, persino in questo mondo particolarmente difficile che è quello delle cosiddette istituzioni di sicurezza, appunto. Sono cioè donne che in qualche modo diventano il frutto proprio esplicito del principio della meritocrazia tanto sbandierato dal neoliberismo. È però una meritocrazia solo apparente, in questo senso, diciamo, la parte sessismo del titolo Sessismo Democratico. È una meritocrazia solo apparente, perché in realtà poi, diciamo, queste donne si trovano ad affrontare tutta una serie di ostacoli. Ciò che secondo me è peculiare è che gli ostacoli che vivono le donne poliziotto della fiction televisiva non sono quelli, diciamo, prodotti dalle disuguaglianze di genere ancora presenti nella società, oppure prodotti dalle diffidenze che sono nutrite verso le figure femminili che occupano la scena pubblica, né sono le diffidenze e le difficoltà legate al carattere, diciamo, intrinsecamente sessista e discriminatorio appunto delle istituzioni in cui si muovono. Sono però, diciamo, tutta una serie di difficoltà praticamente, come dire, proprietarie e residenti, cioè inerenti alla stessa soggettività femminile per come è costruita e, ripeto, oggettivata in queste serie. Un esempio per tutti: queste donne scontano l'acquisizione di ruoli di potere, di ruoli tradizionalmente maschili, con la perdita di tratti tipicamente femminili: dolcezza, capacità di relazioni affettive, caring, valori del maternage, eccetera eccetera, il che di per sé potrebbe essere anche innovativo e dirompente, se non fosse che è una perdita di tratti tipicamente femminili che viene patologizzata, cioè viene presentata sistematicamente come generatrice di sofferenze e di frustrazioni e di proprio blocchi ed impasse emotivi fortissimi, che fanno sì che tanto l'Anna Gori di Distretto di Polizia, quanto Grazia Bini di Donna Detective, quanto Lucia Brancato di RIS, Delitti Imperfetti, Roma e via dicendo, siano poi tutte donne, sì, in ruolo di comando e di autorità, ma tutte donne con difficoltà di relazioni con il partner, chiusura, blocchi emotivi e via dicendo. Quindi sostanzialmente vengono ricondotte a delle, vengono in qualche modo, diciamo, punite sostanzialmente per il loro ingresso nel territorio maschile delle armi, ma vengono anche addomesticate, stemperate attraverso, diciamo, una serie di procedure che, guarda caso, intaccano sempre la dimensione biologica, la dimensione, diciamo, della sfera sessuale. Molte di loro vestono i panni delle poliziotte perché devono in qualche modo superare un trauma vissuto da piccole e legato alla sessualità. Ad esempio Anna Gori, una per tutte, ovvio, quella proprio la più sfigata di tutte le serie poliziesche. E soprattutto poi sono appunto rappresentazioni sessiste, perché dietro questo côté apparentemente pari opportunistico, in realtà che cosa fanno? Te le ricollocano nelle zone della femminilità tradizionale. Quindi mentre gli uomini maschi, i poliziotti maschi, sono tutti insofferenti delle regole, geni pazzi, non sopportano la burocrazia, non osservano le procedure standard dell'indagine poliziesca e grazie a questo intuito riescono a risolvere gli intrighi, loro per converso sono tutte depositarie dell'ordine delle regole, hanno proprio anzi una funzione di contenimento, diciamo, del côté potenzialmente deviante del maschio. Questo succede in tutte le coppie, a cominciare da Cattani, uno per tutte, insomma, era affiancato da una donna invece molto più ordinata e molto più rispettosa delle regole, che è una roba terribile perché ti riconfeziona un'altra volta lo stereotipo tradizionale per cui la bambina anche a scuola è disciplinata, diligente, meticolosa, come una scolaretta appunto diligente, ma non arriverà mai ad eguagliare i risultati della brillantezza e dell'intuito geniale del ragazzino maschio. Questi sono, certo, stereotipi, si trovano anche a scuola proprio. Fino anche, che ne so, allo chef e alla donna invece che cucina nel quotidiano. Ordinariamente. Ordinariamente. Lui genio e testa di serie, lei lavoro di ordinaria amministrazione. E appunto in questo contributo di Elisa si parla molto di una tematica che mi sembra attraversi proprio l'impostazione generale di questo libro, cioè insomma l'addomesticamento, in questo caso l'addomesticamento di figure femminili che potenzialmente cedono, escono dal ruolo di genere tradizionale. In altri casi, per esempio, si usa proprio la parola addomesticamento in uno dei saggi che sono in questo libro, in Sessismo Democratico, tra veli e jeans, l'addomesticamento dell'immagine della donna araba, però appunto l'addomesticamento, la produzione di un immaginario femminile di docilità, fino alla vittimizzazione, mi sembra che sia un tema che attraversa tutto il libro. Sì, dunque, io intanto volevo dire che ringrazio Elisa per aver scritto in questo libro, perché non avendo mai visto io una fiction poliziesca mi sono finalmente fatta un'idea e anche una cultura, perché lei proprio fa un lavoro certosino, proprio puntuale. Sì, certo, il tema del corpo docile, che non si riferisce secondo me soltanto al corpo femminile, ma si riferisce in generale a tutti quei corpi che da qualche parte cedono la norma, no? E i processi di normalizzazione, è un grandissimo tema che peraltro oggi è di altrettanto grandissima attualità, proprio perché appunto quando noi oggi parliamo di donne, immediatamente, un po' come dicevo prima, ci ritroviamo catapultate o nella dimensione celebrativa, no? Quindi la bellezza, il fascino, eccetera, c'è la sensualità, o appunto dentro la logica della tutela. La logica della tutela è quella logica per cui appunto i diritti differenzianti vengono concessi nella misura in cui il corpo docile viene desoggettivato e diventa vittima, cioè assume uno status, no? Tutte le, come dire, i dispositivi che oggi vengono messi in atto per valorizzare o per tutelare il corpo femminile. Mi vengono in mente per esempio centinaia di migliaia di rapporti, di poi vengono scritti anche i rapporti ombra per criticare i rapporti ufficiali, tutte le carte dei diritti delle donne, la carta dei diritti umani delle donne, cioè tutto questo proliferare, no, dal punto di vista formale dei dispositivi di celebrazione, di valorizzazione o di tutela delle donne, partono dal presupposto secondo cui una donna non è un soggetto in sé, cioè che ha una presa di coscienza, che ragiona, che ha la possibilità di raccontare la propria esperienza, quindi di farsi corpo, di parlare, di prendere la parola, ma è sempre invece relegata ad una dimensione di status. In questo, ecco, prima Elisa citava il processo di naturalizzazione, no, che lei chiamava determinismo biologico. Ecco, oggi noi assistiamo anche ad un altro fenomeno che è quello della culturalizzazione del corpo femminile, cioè il corpo femminile è naturalizzato, quindi ridotto a corpo biologico ancora. Però, a ciò che è per natura. A ciò che è per natura e quindi alle attitudini che per natura porta con sé, ma contemporaneamente anche culturalizzato, cioè nel senso che la forma di vita, le forme di vita delle donne, quindi le condotte delle donne, no, vengono sussunte dai dispositivi di potere per poi diventare sul piano formale o norma, quindi norma giuridica, oppure appunto proclamazioni di intenti, diritti universali che però riguardano nello specifico il corpo femminile, eccetera, eccetera. Per esempio, i due saggi che affrontano la decostruzione degli ordini discorsivi ricorrenti attorno alle cosiddette donne arabe, da questo punto di vista sono, secondo me, importantissimi. C'è il saggio di Michela Fusaschi, no? Noi vittime, noi protagoniste, voi vittime e carnefici, in relazione appunto alla relazione difficile tra il femminismo etnocentrico, no, e invece poi le donne che non sono occidentali, in relazione nello specifico alla vicenda delle MGF, no? Oppure dove peraltro prolifera il neoliberismo, sì. Sono le cosiddette mutilazioni genitali femminili, denominate così, cioè mutilazioni genitali femminili, da carte che salvaguardano i diritti umani delle cosiddette donne islamiche, no? E quindi è proprio una nozione inventata questa della mutilazione, perché per esempio se andiamo a leggere la stessa procedura nei paesi in cui si pratica, non esiste la parola mutilazione. Ecco, questo è un tema spinoso, un tema complesso, però è un altro grande tema. Lo stesso saggio di Rosa Parisi su queste donne arabe che invece hanno occupato delle case alla periferia di Roma e che quindi con la loro pratica e con la loro soggettivazione in sé, no, decostruiscono il meccanismo per cui la donna araba non può che essere sottomessa ad un maschile, eccetera, eccetera, è altrettanto significativo. Quindi il processo di culturalizzazione del corpo femminile, che è un processo secondo, cioè di costruzione dello status sulla base delle condotte, è sicuramente anche questo uno dei tratti determinanti della produzione del sessismo democratico contemporaneo. Poi, certo, i corpi docili nelle retoriche discorsive afferiscono sicuramente alla partitura del femminile, no? Cioè nell'introduzione al sessismo democratico, per motivare questa metodologia appunto della ricerca come pratica di decostruzione degli ordini discorsivi del potere che appunto vengono costruiti e messi a punto sulle donne, io dico ci sono tre partiture delle retoriche discorsive che a loro volta generano delle nozioni stereotipate: una è il femminile, l'altra è il femminismo e l'altra è il femminile. Cioè utilizzano proprio queste tre cose. Allora, il femminile che cos'è? La cura, la dolcezza, la tenerezza. Però per esempio la cura, che pure è un tema a me caro e che io non voglio eliminare, diciamo, dal mio lessico, la cura può essere anche rinominata in un altro modo. Per me occupare un posto, per esempio, è un prendersi cura di qualcosa, no? Perché occupare significa restituire alla città, allo spazio pubblico, un luogo, uno spazio. Quindi la cura non è necessariamente quella melliflua per cui tutte le donne sono lì ad accarezzare i loro compagni, ad amare tutto l'amabile, eccetera eccetera. Però il femminile come retorica discorsiva si muove solo su quello specifico lì. Il femminismo, quando si dice femminismo, si dice queste donne aggressive che io sento ancora persone antiche che fanno ancora delle penose. Cose penose, eccetera eccetera. E poi infine il femminino, che tra l'altro una nozione utilizzata da Nietzsche, grande filosofo maschilista, il quale appunto diceva che il femminismo, il femminino era appunto che cosa? La seduttività, la sensualità, l'erotizzazione, l'autoerotizzazione. Quindi le partiture delle retoriche discorsive sono queste tre, però appunto vengono poi buttate nella costruzione dell'opinione pubblica solo con delle banalità enormi. Potremmo continuare a parlare di questi temi molto a lungo, ma la maratona dell'8 marzo di Femministe e Lesbiche ha tantissime voci, tantissimi appuntamenti, e quindi terminiamo qui di parlare di questo libro. Vi ricordiamo Sessismo Democratico, l'uso strumentale delle donne al neoliberismo, a cura di Anna Simone. Ne abbiamo parlato appunto con Anna, con Elisa Giomi, che è una dei tanti che hanno scritto in questo libro, e adesso ce lo leggiamo tutte e tutti, perché credo che insomma ci serva anche come strumenti, come bagaglio di strumenti per gli attrezzi, insomma, per le lotte, perché insomma anche le nostre lotte hanno bisogno di come di dire parole. Costruire di parole, sì, hanno bisogno di parole. Bene. E salutiamo con questo anche le compagne, i compagni di Raccoglio Breakout, che sono in streaming con noi, insomma, in questa chiacchierata con Anna e Elisa. Ciao. Ciao a tutte. Ciao. E forza Notav. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotta, lotto. tus ojitos y esos labios son mi desvelo. Por más que quiero olvidar, no puedo más. Esas copas y esas canciones tristes. La tebolera tacha me fue embrujada. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ebbene, siamo tornate qui ai microfoni, non ce siamo mai andate perché questa è la 17esima ora e mezza della maratona radiofonica femminista e lesbica. Abbiamo concluso la presentazione del libro Sessismo democratico, ma non finisce qua. Sì, non finisce qua la programmazione della maratona radiofonica femminista e lesbica, perché adesso ci sarà un ampio spazio dedicato alle iniziative, manifestazioni, presidi in tutta Italia e non solo. L'abbiamo chiamato Lotto tutto l'anno perché sono delle iniziative che fanno compagne femministe un po' in tutta Italia, che sono solamente la punta dell'iceberg di un lavoro che è a 365 giorni l'anno per, a 360 gradi. E quindi avremo con noi è uno spazio dedicato alle mobilitazioni dell'8 marzo. Mi hai spaventato? Scusa se ti ho spaventato, ti sono arrivata dietro. Volevo dirti che avremo ben 16 collegamenti telefonici con altrettante città d'Italia. Sì, infatti qui io c'ho scritto Palermo, Taranto, Roma, Terni, Vicenza, Torino, Venezia, ma ci sono anche varie da Roma e altre città che adesso non, Milano, insomma, ne avremo delle belle, perché di cose le donne e le femministe e le lesbiche ne fanno veramente tante. Qua altro che 24 ore, potremmo rimanere e farne 48 se non una settimana, una programmazione intera. Ci ascoltiamo Lauryn Hill, Doo Wop e poi la mega agenda Lotto Lotto. Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like, yeah. Yo, check out situation. Yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo, feel yo. Real good when your hands in the air, and lick two shots in the atmosphere, since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Win-win, come again. To the man, or concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they your friend, Papa Yang. Like you got yin. Let's stop pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. The red train, come again. Intelligent women in here, man. Do you think you're too young to really love somebody? No. I say it for me. I'm an adult. I say, wait, you're too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something. I don't know. Go ahead. 24 ore di diretta radiofonica. Entra anche tu nel mito. MFLA su Radio Onda Rossa. E allora 17:38 all'ascolto di Radio Onda Rossa, di questa lunga maratona radiofonica dell'8 marzo a cura del martedì autogestito da femministe e lesbiche, ma a cura anche di tantissime altre compagne che hanno collaborato e continuano a collaborare con noi per questa, appunto, siamo arrivati alla 17ª ora di trasmissione, passata ben da già 39 minuti. La nostra maratona radiofonica continua con 2 ore di vera maratona de fuego, nel senso, adesso andiamo ad aprire questo lungo spazio agenda che abbiamo intitolato Lotto tutto l'anno, uno spazio dedicato alle mobilitazioni dell'8 marzo, ma non solo, uno spazio in cui andremo a fare tantissime telefonate con compagne femministe lesbiche che stanno organizzando manifestazioni, volantinaggi, presidi, 2 giorni e così via, ma non solo, anche compagne che lottano appunto tutto l'anno. Velocemente le città: Palermo, Taranto, Roma, varie da Roma, Terni, Vicenza, Venezia, Torino e le valli del Piemonte. Bell. 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra Toda Forma de Violencia hacia la Mujer, porque estamos hartas de la violencia machista. Harta Frecuencia. Programación especial de Red Nosotras Radio. Oh, oh. Allora iniziamo questa trasmissione Lotto tutto l'anno con un collegamento telefonico con Palermo, con le compagne del collettivo Anillo de Fuego. Ciao! Pronto, ciao! Allora, voi avete fatto una manifestazione, un corteo che iniziava alle 16, com'è andato, come sta andando? Sì, in realtà è ancora in corso, perché siamo appena arrivati davanti il Palazzo della Regione qui a Palermo. Siamo circa 200, oltre il nostro collettivo Anillo de Fuego, i nostri compagni, ci sono anche le lavoratrici qua palermitane e altre varie realtà. È ancora un'iniziativa importante, dicevo, perché ciò che ci interessava era ridare a questa giornata il suo vero significato e non quello di commemorazione, ma anche questa, come le altre, una giornata di lotta, caricata di quelle che sono sempre le nostre tematiche, contro la precarietà, contro il sessismo e contro lo sfruttamento, ed era importante soprattutto la presenza di molte lavoratrici di pomeriggio, soprattutto dopo quello che è successo all'OMS il mese scorso, che è stato motivo di mobilitazione, al di là della violenza fisica. Infatti era necessario sottolineare che la violenza vera vista dalle donne è quella della crisi, e quindi quella di classe più che di genere, diciamo, al di là della violenza fisica avvenuta ovviamente in questo periodo. È appunto è importante questa partecipazione, è raggiunta il numero 200 donne appunto qui davanti alla regione, momentaneamente stanno ancora lottando. Dici un po' di slogan. Cosa? Un po' che slogan state urlando? Dicene uno. Sì, uno di questi, diciamo, riprende quello che è la nostra frase tipica del collettivo Anillo de Fuego, che è l'unica emancipazione è la rivolta, che appunto ci portiamo nel nostro percorso, così come quelli contro l'antifascismo. Senti, avete uno striscione quindi con questo slogan o c'è scritto qualcos'altro sullo striscione? Nel nostro striscione c'è scritto contro precarietà, sessismo, sfruttamento e ribelliamoci. Va bene, senti, come continua adesso il corteo? Adesso stiamo per arrivare davanti al Palazzo della Regione, penso che resteremo lì un'altra mezz'ora e dopodiché comunque terminerà la nostra iniziativa. Ok, va bene, noi ti ringraziamo moltissimo, allora buon corteo, saluti a tutte le compagne che sono lì con te. Saluti a voi. Ciao. Ciao. N'importe e che non crede, peu importe che non reis. N'importe e che non crede. Yeah. Allora, questa è sempre Radio Onda Rossa, la maratona, siamo nello spazio Lotto tutto l'anno, uno spazio dedicato alle mobilitazioni della giornata. Una giornata di lotta, una come tante comunque, per questi gruppi collettivi di femministe e lesbiche auto-organizzati in tutta Italia. Ci stiamo muovendo da sud a nord, ma insomma può essere che a un certo punto la scaletta si scompagini completamente. Un saluto alle nostre radio che oggi ci hanno accompagnato, a Radio di Massa, Transizione di Fase, con cui siamo in collegamento streaming, Blackout e Onda d'Urto. Eh sì. Quindi abbiamo sentito Palermo, il collettivo femminista Niglio de Fuego, l'unica emancipazione è la rivolta, un corteo in corso in queste ore a Palermo contro precarietà, sessismo e sfruttamento accanto alle precarie, disoccupate studentesse. Pronto, e allora continuiamo la nostra maratona radiofonica, siamo ora al telefono con una compagna di Taranto, ciao. Ciao, ciao a tutte, allora, e buon 8 marzo. E buon 8 marzo, cosa state organizzando? Scusa, non ti sento tanto bene. Cosa state organizzando? Allora, vabbè, l'iniziativa l'abbiamo fatto questa mattina, è stata un'iniziativa, un sit-in itinerante, nonostante all'inizio ci fosse un po' di pioggia, insomma il tempo era tanto buono, però è stato un sit-in itinerante e per poi ci siamo fermate nella piazza principale di Taranto. Qui abbiamo esposto striscioni, messo locandine, interventi alle trombe, eccetera. Che cosa, diciamo, c'era scritto sugli striscioni? Sugli striscioni c'era scritto: uno contro il governo Monti, lo Stato e la polizia, sciopero delle donne. Un altro invece era su contro, basta con le violenze e le uccisioni delle donne, scateniamo la nostra ribellione. Questi erano i due principali temi, no, dell'iniziativa. C'era però un altro che era con le donne della Notav, avevamo anche portato la bandiera della Notav, perché avevamo mandato, no, un messaggio alle donne di Valsusa. Mentre avevamo anche stamattina la denuncia più forte è stata nei confronti rispetto alle lavoratrici, alle disoccupate, nei confronti della Fornero e della ipocrisia dei discorsi, no, sulle donne. E anche contro le cosiddette politiche di conciliazione, perché sono una fregatura per le donne, noi non è che vogliamo conciliare, vogliamo invece che ci sia il lavoro e non nelle condizioni in cui è ora, e che ci siano i servizi sociali non siano scaricati su noi donne. Un'ultima questione, abbiamo proprio nel discorso sciopero delle donne, e siccome il 28 febbraio c'è stato un grandissimo sciopero in India di appunto donne operaie, lavoratrici, abbiamo anche mandato un messaggio ideale a queste donne dell'India, che tra l'altro sono impegnate su vari fronti nella lotta contro l'oppressione e sono anche protagoniste di una guerra di popolo. Questo molto in sintesi. Va bene, noi allora ti ringraziamo di averci raccontato appunto le vostre mobilitazioni che immaginiamo comunque vadano avanti tutto l'anno, perché noi lottiamo tutto, certo, l'anno, non certo, solo l'otto, e quindi ti ringraziamo molto, ti salutiamo e continuiamo la nostra carrellata. La delegazione di Taranto tra l'altro domani partecipa a Palermo parleremo anche con le lavoratrici. Esattamente, no, parleremo con una compagna di Palermo che stiamo cercando di contattare, che ci racconterà questa assemblea di donne sul lavoro appunto che farete a Palermo sabato 10. Va bene, ti ringraziamo molto. A presto, ciao. Shopping last Saturday, I was getting some gear and this guy offered to pay. Who's the hunk? I think to myself. For so many years I've been left on the shelf. An old boiler. Then we went walking back down the high street and I felt really proud because he looked so neat. He's a real hard man, tough as they come. He said I was cool, but I still felt like an old boiler. He bid me come out. How could I say no? He said, meet me at 8, round at my place, you know, with my new gear on and a blow-dried hairdo. But in my mind I knew I was still an old boiler. Dance all night long to a nice steady beat, but my hair went to frizz in the terrible heat. My mascara ran and so did my tights, confirming in my sight I must be an old boiler. So we came out of this club, hot and sweaty, because we've been dancing all night. And he says to me, whoa babe, what you doing then? Well, I think I might get a cab. I said casually, ah no, come back to my place. I only live just round the corner, you can go home in the morning. E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, la maratona femminista e lesbica ormai da quasi 18 ore, mancano 3 minuti e con questa carrellata passiamo a un'altra iniziativa, questa volta che non si svolge oggi ma si svolge diciamo nella preparazione tutto l'anno per un campo che poi si svolgerà nella settimana di Pasqua dal 5 al 9 aprile, stiamo parlando del campo lesbico ad Agape. Dovremmo essere in collegamento con... Ciao, ci sei? Sì, ciao, eccomi. Buonasera a tutte. Vi cercherò di presentare il campo lesbico nell'edizione di quest'anno di Agape. È un campo che si svolge in provincia di Torino, a Prali, nel Val del Manasca, nel fine settimana lungo di Pasqua, quindi quest'anno sarà dal 5 al 9 di aprile. Il campo lesbico è una realtà che esiste ormai da 11 anni e ogni anno cerca di creare l'occasione e crea di fatto l'occasione di raccogliere tante donne lesbiche provenienti da tutta Italia in un evento lesbico e separatista che abbia sia un aspetto politico che anche aspetti ludici e di socializzazione. Bene, senti, per partecipare al campo, se ci puoi dire, non so se c'è un riferimento internet, se possiamo ancora partecipare. Sì, il programma e quindi anche il form per iscriversi si trova sul sito del Centro Ecumenico Agape, che è www.agapecentroecumenico.org, o altrimenti per avere informazioni per iscriversi si può anche telefonare direttamente alla segreteria di Agape al 0121 807514, oppure scrivere una mail a ufficio@agapecentroecumenico.org. Sì, che appunto stavo ricordando che è un centro valdese, appunto, dove da ormai 11 anni si tiene questo campo lesbico, appunto, che si svolgerà anche quest'anno a aprile, come di consuetudine, nella settimana di Pasqua. E niente, noi ti ringraziamo per questo intervento, ci scusiamo per la brevità, ma gli interventi sono davvero tanti. Scusa, ho preciso anche che, pur essendo appunto sempre supportato dal Centro Valdese di Agape, il campo, oltre a essere separatista, è anche laico, naturalmente. Certo, e niente, quindi ti ringrazio e ci sarà modo, insomma, di risentirci prima del campo che inizierà appunto il 5 aprile. Ciao. Sì, grazie, ciao. E questa che abbiamo appena sentito era una, scusate, corrispondenza sul campo lesbico che ci sarà dal 5 al 9 aprile nelle valli torinesi, in una valle valdese, in quel di Agape. Ci sono tante valli da quelle parti. Questa è Radio Onda Rossa, salutiamo chi ci ascolta, salutiamo chi ci ascolta dallo streaming, oramai non sappiamo più chi si sta collegando o scollegando, comunque le radio sono Radio Blackout di Torino, Radio Onda d'Urto di Brescia, Radio di Massa, Radio Web di Napoli e Transizione di Fase, queste sicuramente, chissà se qualcun altro è comparsa nel mentre. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vient ici, il sera servi. C'est pas de la faute casquette. Voyez mes gros biscottos costauds avec sa gélère poche et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds niqués. J'ai les pieds en dur comme un échalot. Quando è in diretta ragione.